Radio 24 Reportage. Berlino, ostalgia al posto del muro 25 anni dopo, di Raffaella Calandra. Seguendo i palloncini luminosi, Berlino riscopre il percorso del muro e cerca, 25 anni dopo la sua caduta, le tracce di un confine che resiste ormai quasi solo all'ombra della cosiddetta Ostalgie, la parola tutta tedesca che fa dell'Est il prefisso della nuova nostalgia. Erinnerung aufarbeiten. Im Osten in, falls Ihnen das was sagt, am Ringcenter in der, am Frankfurter Tor. Jonas, 65 anni e una prima vita passata nell'ex DDA, sta camminando lungo i 15 chilometri di questo sentiero bianco, voluto per festeggiare un quarto di secolo da quel 9 novembre dell'89 che invertì la sorte di Berlino e determinò il corso della storia. 25 Jahren hat sich doch schon einiges verändert. Ist sehr schön und ich genieße das einfach. Una passeggiata nel passato e nei ricordi per questo ex operaio che non può scordare la corsa dentro KDW, il grande magazzino simbolo del capitalismo, nella prima incursione al di là del muro. Su Alte Jakobstrasse, nel centro, il vecchio confine si perde su un letto di foglie gialle. Più spesso va a sbattere su cantieri aperti, ma al posto delle sue tracce sopravvive ancora qua e là nella capitale del paese locomotiva d'Europa la voglia di recuperare parte di quell'epoca. Penso che è una vergogna che non c'è un pezzo del sistema di questa frontiera, non c'è un pezzo del muro come era una volta, perché era non soltanto un muro come si vede adesso negli monumenti, perché questo non era il muro, era il muro sulla parte del RDA, il primo muro. Poi si entrava in un sistema di fortificato, una zona di morte dove bastava di toccare con il piede la terra per segnalare ai custodi nelle torri che c'era qualcuno che voleva fuggire. E questo sistema, che era veramente una cosa tremenda, non si può vedere da nessuna parte a Berlino. È un po' strano per me, che conosceva il Potsdamer Platz quando era completamente vuoto, e questo era una cosa incredibile, un vuoto di 500 metri di distanza, no? Tra i due stati, tra i due sistemi, e oggi è tutto completo, non penso che è una grande architettura che si vede lì sul Potsdamer Platz, però funziona. Berlinesi sono curiosi e in qualche modo hanno accettato questa piazza. Però come dicevo, non si vede niente, neanche una piccola cosa che ci ricorda da quella situazione che abbiamo vissuto per 28 anni, e non solo noi a Berlino, ma era una frontiera non solo tra due parti della città, ma anche tra Europa e anche una frontiera tra il mondo. Peter Schneider, autore tra l'altro del Saltatore del Muro e già portavoce del movimento studentesco del 68 in Germania, ha sempre pensato che la storia, con le sue ferite, sarebbe dovuta essere più evidente sul viso di Berlino e non relegata a quella che definisce roba da Walt Disney, il chilometro cioè di mura della East Side Gallery con i graffiti. Ma non dà credito Schneider alla Ostalgie. Che sono soltanto un 10-15% della popolazione della vecchia DDR, Germania orientale, che si danno a questo sentimento. Diciamo il problema più attuale si svolge sempre quando si parla dell'Unrechtsstaat, della RDA, allora di uno stato di ingiustizia. E lì c'è una certa rivolta. I cittadini che ancora hanno vissuto questa vita della RDA si sentono discriminati. Il stato della RDA era davvero una dittatura. Non c'era la libertà dell'espressione, c'era il segreto servizio che dominava tutto, non c'erano votazioni, elezioni liberi. Però questo non vuol dire che i cittadini che hanno vissuto in quel stato non hanno avuto una vita degna, una vita bella. Diciamo, in tutte le dittature si può fare una vita anche decente, e questo è il problema. Un dibattito questo in realtà rinfocolato proprio nei giorni delle cerimonie e dei ricordi della grande storia da due segnali diversi. Una parte i 4 giorni di sciopero dei mezzi pubblici per vertenze sindacali che stanno creando non pochi disagi, dall'altra l'avanzata nell'anda della Turingia del leader di quella Linke che ha raccolto l'eredità degli ex comunisti, di cui non mi fido, ha detto chiaro e tondo il presidente Gauck, che considera inaccettabile tutto questo per chi ha vissuto quella stagione. Quando però si lasciano i caffè di Oranienstrasse e le gallerie di tendenza dell'ex Berlino Est per i grandi allée più periferici, tornano nelle conversazioni della gente parole come disoccupazione, insoddisfazione e differenze di stipendio. Ich finde es traurig, dass noch keine Angleichung stattgefunden hat. Die Leute im Osten verdienen erheblich weniger als im Westen. La città è ancora divisa, recita un cartellone poco lontano dalla Eastside Gallery, dove i turisti soprattutto vengono a fotografare la storia, e le scuole portano invece i più piccoli a scoprire l'idea di un confine per loro inconcepibile nella Berlino di oggi. Westdeutschland und Ostdeutschland. Ich find die Mauer auch sehr sehr spannend und es interessiert mich auch sehr. Ja, also die Mauer war ja früher diese Trennung von Ost- und West-Berlin. Ad una ragazzina degli anni 70, qual era Maike Albat, oggi critica letteraria, fu una parola a svelare l'esistenza di un mondo diverso dall'altra parte del muro. La parola capitalismo l'ho sentita per la primissima volta nella Germania orientale, quando avevo 12 anni, sarà stato negli anni tardi 70, negli anni 70, dalle cugine, perché loro mi dicevano: beh, tu vivi nel capitalismo, noi viviamo nel socialismo. Io non sapevo assolutamente di che cosa si trattava. Tasse. Ed è stato comico, perché solo dopo ho capito che erano due sistemi politici diversi. Secondo me la nostalgia molto spesso non è una sensazione produttiva, nel senso che è legittima. Io capisco soprattutto i miei coetanei intorno ai 40 anni, 50 anni, che magari hanno nostalgia dei luoghi dell'infanzia, e molto spesso questi luoghi non esistono più, sono scomparsi, come anche non esiste più la Germania dell'Ovest. Però l'Est, e bisogna proprio ricordare questo, la Germania dell'Est era anche un posto dove è successo molto, che era molto grave, nel senso che chi diceva un'opinione che non andava bene veniva messo in prigione o peggio. Quindi bisogna sempre anche riscaldare in questi momenti di nostalgia quanto era complessa la Germania orientale. Per gli artisti è stato drammatico, e in momenti di festa a volte è difficile proprio anche tenere presente un momento storico nella sua complessità. Quindi io spero che una discussione comporti anche una differenziazione delle situazioni. I luoghi della famigerata Stasi sono oggi attrazione per turisti, ma quelle microspie usate per controllare le vite degli altri furono una realtà per scrittori come Falco Hennig, cresciuto nell'ex DDA e che oggi con altri autori dell'ex Germania Est ha pubblicato un'antologia dal titolo emblematico Ma quale muro? Nel suo racconto sul ciclo del tempo è soprattutto il silenzio delle strade senza insegne e delle rovine che rimpiange, quando ricorda un mondo di cui ormai nulla è praticamente rimasto, scrive, se non in qualche negozio di souvenir. Credo che la grande moda della ostalgia si sia affievolita di nuovo. Alcuni aspetti li considero molto comprensibili, perché molte persone ricordano volentieri la propria giovinezza, in generale il proprio passato. E queste hanno avuto luogo in un altro paese, per tutti i tedeschi che prima vivevano nella DDR. La vita nella DDR non consisteva solo principalmente in repressione e carcere. Al contrario, la vita quotidiana trascorreva in maniera normale e pacificamente. La maggior parte delle persone non avevano alcun problema con il governo. Ostalgie sono i ricordi agli anni felici della propria vita. La mia supposizione è che le persone fossero più felici nella DDR rispetto a quanto lo siano oggi. Oggi si possono comprare molte più cose se si hanno i soldi, ma a volte non si hanno, e nella DDR quello che si poteva ottenere nella vita era molto meno. E se lo si otteneva, per esempio un giardinetto, o una piccola auto, o un lavoro con cui cavarsela, beh, non c'era altro che si potesse ottenere. Nel giorno della festa anche la nostalgia, o meglio la ostalgie, è destinata a volare nel cielo sopra Berlino, insieme agli 8.000 palloncini di questo provvisorio confine luminoso, cancellato al tramonto di nuovo sulle note dell'inno alla gioia di Beethoven davanti alla porta di Brandeburgo 25 anni dopo, quella notte del 9 novembre dell'89 che invertì la grande storia. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.